se non prendo il caffè non riesco a carburare. La stragrande maggioranza di caffè consuma 3 tazzine al giorno. Il caffè è la seconda trattata prima che ma serve anche la caffeina può migliorare le nostre prestazioni mentali. Tutto il mondo si 17, 5 minuti primi all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa. La domenica cosa succede? Succede che ci beviamo un bel caffè doppio per svegliarci da un sabato sera distruggente per andare a letto ben alle 10. È stato veramente una cosa struggente, insomma, ancora sto dormendo in piedi. La cosa bella, diceva David, è che non gli funziona il microfono. Siamo tornati in onda, benissimo, sono tornato in onda, buongiorno fantastico. A tutti. E niente, vabbè, dopo un sabato sera in cui sempre il solito Tameto non è riuscito a degnarsi della sua presenza, ma è andato a dormire. Senti, io stavo male, sentirei ancora adesso che ho il naso tappato, perciò, insomma, già che sto qui con la mia voce, possiamo ringraziare il cielo. Il cielo, ringraziamo. Vabbè, dopo questa battuta scabrosa, vorrei dire che tra poco ci verranno a trovare qua in studio una bendicciola molto molto intrigante, però che non abbiamo ancora in studio perché, insomma, il ritardo di Roma, si sa, i romani sono ritardatari di natura, e vorremmo introdurre questa puntata di Caffè Doppio con una canzone dei 99 Posse dell'ultimo album uscito quest'anno, Tarantelle per Campà, insieme a Caparezza. E se vi piace, naturalmente, 0649 1750. Cime taradella, taradella va camba, ma non so che taradella vostra che stica. C'è tsunami, c'è candama, la balla, mia mano, mano, campala, ma tutta cosa sta cagliando già. Quando la musica non è buona è assai difficile a balla. Ma con chi sti su natura, rimma tu con mamma fa. Ma chi non è barcadella, ma in vacanza le Seychelles, sotto il fuggio e mattonella, magna magna e bustarella. La patenza e spugliarella, fanno i festini, rinde e villa, se pazziene quali uccelle. Se trapianta nei capilla, buchi in arena a cannella, vanno tutte cose belle, cravatte marinella, champagne che darà, latticine e mozzarella, vanno tu ne spugliatelle, che canzona una picella. Fanno i tuffa con fanille, noi facciamo tarantelle, tarantella va gamba. Merese. I suonatori sviolinano per due voti, ma poi ti lasciano sotto tiro nei terremoti e si balla. Con il veleno somministrato si balla, mica come nei voli di stato si balla. In mutande come nel campo, non ho le tarantelle, tarantelle per campo. E facime tarantelle, tarantella va campa. Fusionato ne balla, ma sta musica da cagna. Uberina cacerato, ci pigliamo e trasformami in tarantella che balla, ma va campa. Noi facime tarantelle, tarantella va campa. Ma non so che tarantella volta che stinca. C'è tsunami, c'è cantamma, la balla, mia mano a mano che balla, ma tutta cosa sta cagnando. Ciao. Tarantella più bella, so sempre che la di sfide guerra. Come la giudanessa che si balla che cortella. La balla nel mugliere che marito e pure figlia. Una volta si ballavano in de case dei paesi, portando scuorne e scumbiglie. Mo si ballano in de feste dei paesi con orgoglio. Perché è quello che sima. Facimme tarantella, non teniamo proprio niente a cacciare, ma vergogna. Noi ca. Noi facimme solamente tarantella per campare. Mano a mano che facimme tarantella, ci accorgiamo delle potenzialità. Ed ogni tarantella diventa talamento. Canto di libertà, libertà casa dipende. Che curtiello tanti botte da vulli va vicina. Tarantella va camba, ma non so che tarantella vostra che sticca. C'è tsunami, c'è cantama, la palla, mia mano, mano, che palla, ma tutta cosa. allora ancora 87.9 all'attesa dei due ospiti di quest'oggi, di Caffè Doppio. Quest'oggi... E suonarono il rullante in attesa, ma non ancora sono arrivati, quindi noi andiamo avanti. Vi dicevo che sì, andiamo avanti adesso ad ascoltarci un po' di musica. Quest'oggi, ripeto sempre quest'oggi perché non mi ricordo che giorno è e non lo voglio sapere, perciò non ditemelo perché sennò ho paura che è domenica e domani c'è scuola. Intanto per cercare di far andare... Chiamateci in diretta e diteci, dai, no, diteci dai, che David, giorno no, è. Non mi fa, no, non mi fare questi scherzi, su, lo sai che poi mi piace male. Vabbè, per aiutare i nostri due amici a sfuggire dal traffico di Roma e ad arrivare qui negli studi di Radio Onda Rossa, gli dedichiamo questo pezzo delle Radici nel Tremendo. Nel Tremendo. Del Tremendo, Radici nel Tremendo. Era andato tanto bene. Questo pezzo delle Radici nel Cemento e il Traffico di Roma. E sempre naturalmente il solito casino col computer, perché io ancora non mi sono abituato a diciamo gestirlo bene, no? Allora partono 7 pezzi contemporaneamente, 15.000 spot, insomma si potrebbe fare una trasmissione solo di questi errori. Sarebbe sì, sì, sì, sicuramente tutta la trasmissione si potrebbe fare di questi errori, però dai, perlomeno chiudi le finestre quando le apri, cioè non lasciarle aperte, dai, mettiamo il traffico di Roma e andiamo avanti. Va bene, allora lo ripresento per bene, Radici nel Cemento, 87.9, Radio Onda Rossa, il traffico di Roma. E speriamo sia un augurio ai due ospiti di arrivare, almeno prima della fine della trasmissione. Se non ci sei mai stato, te lo dico io com'è. È una cacciara, una vera poggia, una pipinara, è una cambogia. È un brulicare di macchine impazzite, si può te lo racconto da meretta a moserite. Il grande raccordo anulare è come una giostra che gira sempre intorno. Si lo trovi ingolfato poco male, ma si è bloccato se rimani tutto il giorno. La tangenziale, lasciala sta, piena un'altra strada, non te sbaglia. Se vuoi andare dritto nell'occhio del ciclone, allora ti consiglio via la circonvallazione. Dei mezzi pubblici, sono tutti fobici, bebbiate il prezzo della tempestività. Infatti l'autobus va da lentissimi, solo un pochetto più veloce c'è il tram. Poi c'è la metro, buona anche quella, solo due linee, la terza è la più bella. Rimane il treno, sempre gagliardo, pare fatta apposta per chi può arrivare in ritardo. Io non ne posso più, io non ce voglio tornare. Io non ne posso più. Ci sei mai stato mezzo al traffico di Roma? Ce l'hai presente, lo sai come funziona? È un delirio, è una tortura, è un martirio, è una congiura, è una condanna per l'automobilista, perché ogni santo giorno l'è costretta a tornare in pista. Li pizzardoni, so poveracci, a fine turno sono ridotti come stracci. E per sfogasse tu lo sai che fanno, a me personalmente almeno 3-4 multeranno. Gli semafori sono intelligenti, quando ti servono li trovi tutti spenti. Quando invece scorre tutto regolare, li becchi sempre rossi a intermittenza semestrale. Amberi quello, mi pare in gabbia, lui c'ha una fretta che se lo porta via. È già da un pezzo sì che schiuma dalla rabbia, può fa le corna pure alla polizia. E li parcheggi son merce rara, te trova un posto tutti quanti fanno a gara. Li principianti sono una minaccia, te li pedoni sulle strisce vanno a caccia. Il motorino va che è una strada, sulle due ruote lui è il padrone della strada. Te guarda davanti del fianco sopra e sotto, te dietro invece no, rosicherebbe troppo. Io non ne posso più, io non ce voglio tornare. Io non ne posso più. Ci sei mai stato mezzo al traffico di Roma? Ce l'hai presente? da traffico della grande città. Io lo conosco bene, non ci voglio ritornare. Ci voglio tornare. E così finiva il pezzo delle Radici nel Cemento e ha funzionato come buon auspicio. Magicamente sono venuti, sono apparsi in sogno noi, i nostri due ospiti di quest'oggi, ma mentre rifiatano dal traffico super stressante, dalla guida direi acrobatica che bisogna applicare in mezzo alle strade del centro di Roma, vi dedichiamo un altro pezzo. Loro sono gli Zen Circus, con un pezzo che purtroppo non riesco a leggere perché lo schermo del computer sta troppo lontano, perciò spero che lo riconosciate. Mine. E finiva anche quest'altro pezzo. Allora, siamo quasi pronti per presentarvi i nostri ospiti di oggi qui a Caffè Doppio dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Intanto, mentre prepariamo le tracce, i CD e soprattutto i ricevitori satellitari e le navicelle spaziali che in questo momento partiranno e andranno nello spazio a fare pubblicità per raccogliere il maggior numero di ascoltatori e di ascoltatrici, ci ascoltiamo un altro pezzo. Lui è Paolo Conte, il pezzo si intitola Lo zio. È tratto da un live, perciò c'è un po' di tempo prima che arriva in studio. E naturalmente è sempre Tameto che le mette queste cose sul computer. Eccolo. Zitto. Aspetta raggiungilo, quando ti guarda decifralo, è tutto cinema, cinema, cinema, ah. Come back to my old Chinatown, ah, zio, zio, come, spiega la vita, spiega dov'è, yeah, zio, zio, perché, spiegami tutto, spiega com'è, tutto quanto si srotola, nel nostro film la pellicola. Spiega com'è, tutto quanto si sprotola di qua. questo film la pellicola. Ed era lo zio di Paolo Conte. Allora, prontissimi per presentare i nostri ospiti di oggi. Finalmente in diretta alle 17:26 minuti su Radio Onda Rossa, qua con i nostri ospiti. Buongiorno a tutti. Aspetta, diciamolo al tre. Ok, insieme. Uno, due, tre. Just a case. Ciao. Buongiorno. Senti, niente, è arrivata allora questa puntata. Insomma, noi facciamo una volta musica a bufola, la scegliamo noi, una volta invece invitiamo qualcuno. Oggi abbiamo inventato i Just a Case. Perciò voi potete anche andare, dovete far finta di non esistere perché li abbiamo inventati noi. Plagio della proprietà intellettuale, però. Sì. Allora, niente, direi che ci possiamo ascoltare prima un vostro pezzo e poi ci chiacchieremo sopra, ci raccontate di voi, va bene? Allora, iniziamo dal primo, dei Just a Case, The Strange Case. Le mie ali danzano nel cielo, nessuno sarà mai in grado di spezzare. Il dottore si comandi, balla con il diavolo. Tortura notte fonda, fogli bianchi sopra il tavolo. Per il tuo credo dei fetifragi, ma nuovo cibo per la mente, per generazioni di coprofagi. Sentici, non te ne pentirai. Siamo tornati dal futuro e siamo morti McFly. Per dirti quello che non sai, darti quello che non hai, farti sentire quello che non hai sentito mai. Dai, mettici alla prova e vedrai che quando il beat suona poi la gente non si schioda, perché resta ferma, ammaliata da sta ritmica. Dopo che un altro finto king abdica, distruttiva è la mia tecnica. Con fuoriuscite ardenti di materia piroclastica, in questa scena che è drastica, dove si mastica solo roba fatta in plastica. Odio MC invece si allena con codici alfabetici ergonomici per ogni sistema, talmente complessi che chiameranno me per la comunicazione in caso di invasione aliena. Non facciamo hit, famo real shit, pure hardcore, niente roba club shit. Shit. Te lo ripeto, non facciamo hit, famo real shit, pure hardcore, niente roba club chic, chic. E va così, vedo troppi MC privi di skills, atteggiarsi a modi films, più corrotti di David Mills. Eh sì, battizzo le topologie, tornerò per ammazzarti tutti come Pennywise. Con voi manco discuto, tanto parlerei per via onomatopeica, insieme a un sordo muto. Se sparo più colpi della Gatling Gun in un minuto, con la tecnica trasmigratoria della scuola di Okuto, nasci contuso, mentalmente fuori uso, quando abuso del potere infuso nel microfono che uso. Confuso, nelle spirali del mio flow, mentre il Dr. G break it up come Curtis Blow. Azzimo, becca testa assaggio, e se ne vuoi di più, beh, preparati al contagio. Dr. Jekyll is a cultivated gentleman. Mr. Hyde did. E abbiamo appena ascoltato The Strange Case degli Just a Case, giusto per spellare, perché magari la gente non lo capisce, insomma. Poi gli aneddoti li racconteremo dopo. No, volevo sapere, partiamo un po' dal principio. Com'è nato questo progetto? Per caso, il motivo per cui Just a Case si chiamano i Just a Case è che è stata una casualità, solo un caso. Ci siamo incrociati per strada, con le tavole, e niente, ci siamo messi a parlare, mi ha chiesto se mi piaceva l'hip hop, e così abbiamo cominciato, è venuto a casa, ha sentito un po' dei miei lavori. Io già facevo, diciamo appunto, strumentali, basi per l'elettronica, facevo il DJ per fatti miei. E abbiamo fatto un esperimento, diciamo, provare a fondere due culture molto lontane in realtà. Beh, allora a sto punto presentiamoci, no? Che siamo qua, se no l'uomo del mistero sta parlando. Allora, noi siamo il Dottor Greenspoon e Mr. 8. Ecco, ancora più un mistero, in realtà non si è capito chi sono, però va bene così, è bello dell'arte. È il bello della radio, che uno parla ma non si vede mai. Nessuno può saperlo, esatto. Facile. Eh beh, no, aspetta, più facile. Per quando c'hai davanti magari già 300-400 persone diventa più difficile. Sì, certo, no, ma poi quando stai in radio magari con un, deficiente come Tameto, poi ti accorgi, no, magari che lui ti fa una faccia buffa così e lo capisci solo te perché stai ridendo, la gente non lo capisce. Ci sono certi aspetti molto difficoltosi. Vabbè, però parliamo di altro. Come vuoi presentarci? Come possiamo essere, non essere misteriosi? Dice te. Vabbè, niente, diciamo che il gruppo è composto fondamentalmente da noi due. Io, il dottore, faccio il beat e mi occupo dello scratching, della chitarra solista, e invece Mr. 8 è il rapper. Perfetto, quindi la formazione, siete un duetto, una in coppia, fondo. Esattamente, una coppia. Cioè, la stranezza appunto del gruppo, diciamo, è che, proprio come ha detto già lui, cioè il fatto di fondere due culture che sono completamente diverse. Nel senso, io sono sempre stato comunque in un certo senso chiuso nell'ambito del rap, dell'hip hop, poi sempre magari con la cultura africana, comunque del blues, già là ci incontravamo, mentre lui comunque veniva da un panorama musicale molto più aperto, comunque lui ha viaggiato molto più di me, è musicista, comunque... Quindi ispirazioni differenti, cioè nel senso ognuno ha la sua ispirazione. Infatti le prime basi che mi ha fatto io mi sono trovato un po' in difficoltà, nel senso che comunque tiravo fuori dei campioni un po' strani, delle tempistiche un po' particolari, e quindi io, venendo appunto dall'hip hop classico, era difficile comunque amalgamarmi al suo stile. Però da come abbiamo sentito nel primo pezzo, poi amalgamarvi ci siete riusciti molto bene. Perché prima di lui, purtroppo io, non avendo un DJ, usavo come tutti quanti i ragazzi fanno all'inizio, magari delle strumentali di qualcuno americano, oppure me le facevo fare, certo, magari a pagamento. E comunque, sai che quando tu non hai un suono tuo, cioè una base che non è tua, che comunque la base, la musica è tantissimo in una traccia, ti trovi in difficoltà perché diciamo che io sono riuscito a trovare un suono mio completo solo grazie anche al dottore, cioè nel senso che lui mi ha dato un suono sotto e io ho costruito il mio suono insieme a lui. All'inizio io diciamo che prendevo un po' di flow da quel rapper, un po' di quello dalla, non avevo proprio un suono mio, solo grazie a lui, alla nascita di Just A Case, siamo riusciti insieme a trovare un suono che fosse nostro e basta. Quindi da un piccolo copia e incolla iniziale si è trasformato in un progetto vero, esatto, e proprio, di portare fuori quello che avevi dentro e magari diverso da quello che c'è in giro. Esattamente. Vabbè, ma questo poi succede, diciamo, non con noi. Questo è il concetto alla base della musica. Cioè la musica è una catena. Tutti i musicisti cominciano a suonare facendo copia e incolla. Esatto, sì. Quello che, cioè, quello è figo. Voglio essere anch'io figo così quando suono la chitarra. Quindi suono quella roba lì. Certo. Vabbè, e a parte il progetto, vabbè, abbiamo detto già che siete solo voi due, quindi una copia. Avete messo in mezzo anche altre persone o in generale siete sempre stati voi due? No, vabbè, c'è stato grande aiuto, soprattutto dal punto di vista organizzativo. Abbiamo avuto un sacco di persone che ci hanno aiutato. Andrea, noto anche come il padrino. Il padrino! Era un ragazzo che è stato per un sacco di tempo poi con noi sul palco, ci dava una mano coi piatti, con le strumentazioni, anche perché appunto io... Là dietro c'è due braccia, capito? Certo. Devo arrivare a prendere la chitarra, i piatti, il campionatore, il mixer, comincia a diventare complicato. Diciamo che c'è stato questo ragazzo, è stato molto importante per noi, e nel logo anche ci sta ancora. E adesso non condividiamo più il lavoro musicale, anche se siamo comunque dei compagni ancora. Però lui ci ha dato appunto una mano dal punto di vista del management, delle serate. Anche perché io e il dottore non siamo molto bravi nelle public relation. Ci sono un po' sedere. Abbiamo un'entropia un po' eccessiva. Però diciamo che proprio il rapporto comunque io e lui abbiamo un po' morboso. È un po', diciamo, è difficile inserire qualcun altro all'interno del gruppo, capito? Se non si riesce comunque a amalgamare il nostro pensiero, che è un po' particolare. Quindi per il momento ancora rimaniamo io e lui. Però stiamo comunque cercando magari qualcuno che ci possa dare una mano dal punto di vista del DJing, degli scratcher, per dare appunto la possibilità al dottore di potersi concentrare anche perché più. Le mani sono due, come, esatto, diceva, no? Lui suona la chitarra, che cosa fa d'altro? Fa le basi, sta con la chitarra, screccia, usa la però guy. C'è sempre un'idea, potresti iniziare a usare i piedi, cioè sai quanti suonano la chitarra coi piedi? Geniale. Abbiamo fatto diversi tentativi di quello, guarda. Campionatori a casa, piedi. A casa da solo a cercare di suonare la chitarra coi piedi. Esatto. Mi sa che non viene bene, quindi mi sa che mi tocca trovare qualcuno. Vado io a suonare la chitarra, ad approcciarmi. Anche quello. Forse era meglio che suonava lui coi piedi, esatto, insomma. Viene meglio, guarda. Va bene, sentite, secondo me possiamo fare un altro stacco musicale, certo, per ascoltarci un altro pezzo. Non so se Ernest si chiama questa. Ernest, è va bene. La canzone che dedichiamo a ogni Just a Man, a ogni ragazzo là fuori che quindi avete si pure fa il no- le stesse domande. Avete pure il nome delle fan, cioè delle, perché delle... No, perché i fan non non rende, però le fan sono i Just a Man. Allora, va benissimo, allora sempre dei Just a Case, Ernest, se vi piace, se volete applaudire ai loro pezzi, 0649 1750, un piccolo squilletto e voi lo vedranno. Fantastico. Yeah, Just a Case, baby. Yeah. Woo, woo. Dimmi quando riuscirò a dormire, sono tranquillo, senza che un maledetto incubo mi tenga sveglio. Voglio che al mio risveglio tutto quanto sia un po' meglio, che tutto cambi forma come cambia un'onda sullo scoglio. Ma non ne faccio un dramma, prendo fiato e spero che sta fiamma splenda e non si spenga, adesso calma. Correrò i ripari se sta vita avrà fame, non lascerò che un gioiello si ricopra di catrame. Devo restare in superficie, uscire dallo stige per risorgere più forte come l'araba fenice. Scrive va bene Nietzsche, la gente qua si arrampica sopra i cadaveri degli altri mentre ti sorride. Niente più sfide tra ste iene e ridens, falsi leader. Divorano la nostra carne come Jeepers Creeper in questa giungla fetta da cash fever. Tramo nell'ombra di White Chappelle insieme al Doc e Jack the Ripper. Yo, check, check, allo con il margin rap. Follow me to hell, manca solamente un altro step. Segui noi, Dr. Green Spoon, The Outsider, ODMC, Mr. A, take a the Ghostwriter. K.O. senza fiato sotto shock per tutto quello che so e quello che non ho. E spingo pop perché mi rigenera ogni notte che me la scrivo al buio chiusa in camera. Stufo di chi mi esamina, di gente ipocrita che giudica solo chi va contro la sua politica. E già sempre con la testa sotto effetto musica, sempre a tocchi sotto un treno in questa realtà sudicia. Mai a mente lucida, col disprezzo per chi ruba e con rispetto per chi se la suda qua. Sempre con l'identica voglia di fare musica senza la tipica tendenza da primo in classifica. Non studio fisica, scrivo versi in metrica per migliorarmi in tecnica e capacità sintattica. Eh sì, la scuola è solo un optional, meglio sfattonare ad occhi chiusi con un CD di Medical. Sempre sotto stress, incazzato nero col mondo intero se le cose non vanno come volevo. Ma la mia vita me la tengo stretta, pure se inietta veleno dolce più della vendetta. Allora era Ernest dei Just a Case, 17:39 minuti primi e caffè doppio agli 87.9 di Radio Onda Rossa. Vi ricordo ancora una volta il numero di telefono 0649 1750 e ridiamo il via alle chiacchiere, diciamo, che è quello che ci piace fare, no? Dire un via sacco, alle chiacchiere, come partiamo col televoto più o meno. Sì. Allora, niente, parlavamo, diciamo, della vostra formazione a livello artistico, insomma, questa fusione di due mondi completamente diversi, sì, due percorsi di esperienza completamente diversa, Io vi volevo fare una domanda un po' diversa che insomma mi incuriosisce nei gruppi emergenti. Vi volevo chiedere se, diciamo, proprio a livello pratico vi siete posti un obiettivo, no? Perché magari le prime band emergenti pensano solo suonare, invece magari alcune si fanno un percorso più specifico. Voi che strada avete intrapreso? No, vabbè, sicuramente c'è un obiettivo, però comunque io credo che il motivo principale per cui almeno noi suoniamo sia sempre, cioè la musica stessa è il fine, la soddisfazione artistica sicuramente. Comunque in questo momento ci troviamo in una situazione sia internazionale che poi a livello più specifico in Italia discografica abbastanza critica, e le band emergenti hanno poco spazio, nella scena hip hop hanno ancora meno spazio. E alla fine credo che quando uno costruisce un progetto deve immediatamente decidere se il suo fine ultimo vuole essere l'arte o meno, perché se non fai arte, se hai intenzione di venderti, allora puoi avere anche altri tipi di obiettivi. In realtà diciamo che poi questo è anche un problema che si genera a seconda di quanta esperienza c'è, cioè band emergente può voler dire tante cose, magari è una band emergente ma i musicisti all'interno suonano tutti da 20 anni, hanno avuto altre esperienze in altre band. Sì, no, vabbè, quello è sicuro. Abbiamo detto, no, che comunque la discografia in generale sta subendo una crisi, vabbè, ma questo lo diciamo da praticamente tutte le puntate, lo diciamo perché è effettivo, cioè è vero. Poi tra l'altro è una realtà concreta, però penso che Insomma, poi basta andare a vedere che c'è sta dietro, no? Vedi gente che ci vuole solo fare i miliardi, no? Certo. Perciò un po' ti rassegni. Certo, ma quello tu stai parlando non più di arte, ma in realtà stai parlando di mercato, di oggetto, vendita di un oggetto. E noi invece stiamo parlando di tutt'altro, e da quello che ha detto appena adesso mi sembra di capire che in realtà stiamo parlando di un'esperienza, un modo di tirar fuori qualcosa che è completamente diverso dal vendo un oggetto. Io credo che cioè l'obiettivo finale di un musicista, di un artista, se me posso permettere, è sempre qualcosa di incredibilmente personale. E nel momento in cui noi abbiamo cominciato a suonare, diciamo, con questo progetto, a creare Just a Case, abbiamo deciso di creare un progetto che fosse sperimentazione musicale, che fosse in realtà qualcosa che esprimesse un certo tipo di necessità spirituale che si crea all'interno di un musicista. Cioè se non crei non sopravvivi, e questo è il punto. E la nostra musica parla di questo, quindi credo che sia molto più importante alla fine parlare del fatto che non sono solo i soldi che contano, che non è soltanto dimostrare alla gente che ti sei realizzato, che sei il king, che sei questo, che sei sto cazzo di qua. E l'importante è arrivare ad avere qualcosa che è tuo e che ti realizza e che ti permette anche di comunicare agli altri qualcosa, di dire, cioè, ma le due strade del realizzarsi, cioè esatto. Nel senso, una si realizza perché ha fatto i soldi, quell'altra esatto. Invece si realizza perché ha ottenuto qualcosa concreto suo. Esatto. Sono due strade completamente diverse. Noi sicuramente siamo più sulla seconda. Poi certo, tutti i musicisti si devono relazionare con il mercato musicale, col music business. E poi da quel punto lì pure ci sono altri problemi, perché uno non può scegliere di andare in major. Però certo. Con i tempi che corrono, autoprodursi è impossibile. Nel senso, puoi anche farlo, però diciamo che devi avere una buona conoscenza alle spalle di quello che è il mercato dell'indie, oppure un'etichetta indipendente che ti affianchi e ti sostenga nel percorso. Motivo per cui noi al momento abbiamo fatto uscire un primo EP, non un LP, cioè un singolo, diciamo, di 4 tracce. 2 per lato A e 2 per lato B, e adesso ne faremo uscire un secondo nell'arco dei prossimi 3 mesi, in modo da chiudere 2 LP in un anno, 2 EP in un anno, e poi sperare da questi EP di trovare qualcuno che ci affianchi per la produzione di un LP intero. Ho capito. E senti, secondo te, da quello che dici, diciamo, è ancora possibile vivere di arte in questo momento? Nel senso, uno in parte si deve per forza vendere, oppure c'è comunque un piccolo sentiero che si apre per gli artisti che vogliono fare arte, ma naturalmente insomma devono portare la pagnotta a casa? No, il sentiero per gli artisti che vogliono fare arte esiste sicuramente, però in delle scene molto elitarie e molto intellettuali. Ad esempio, questa è una cosa che si vede molto facilmente nel contesto dell'elettronica. Cioè l'elettronica grossa, quindi appunto la dubstep, la drum and bass, ogni volta che, no, esce un nuovo genere, una cosa nuova, tira forte nei locali o nelle serate, il 90% di DJ cambia genere. Cioè, 4 anni fa era drum and bass, adesso è dubstep, tutti a fare dubstep. E invece nel mondo dell'elettronica, diciamo appunto raffinata, l'elettronica progressiva, un po' più concettuale, esiste concretamente la possibilità per ogni artista di avere un suo modo di suonare. La classificazione dei generi nasce con la critica musicale, coi giornalisti, col bisogno di infilare i dischi sotto a determinate etichette nei negozi, non dall'artista. Quindi è anche molto la tua forza di volontà nel non lasciarti trascinare in quello che è il mercato del mainstream, del becero, poi, che, ripeto, assolutamente ci sono grandi artisti, il massimo rispetto, però sicuramente non è una forma di di arte intellettuale, non è genuino, cioè comunque vieni da delle discendenze, da dei riferimenti. Ah, certo, ho capito. Va bene, senti, secondo me ci possiamo ascoltare ancora un altro pezzo, io un po' ci ho preso gusto. Mi pare giusto. Va bene, allora leggo qui sulla scaletta sempre Just a Case, Soul Music, e direi che ce l'ascoltiamo immediatamente. Anche perché fortunatamente non cambiano nome ogni pezzo, quindi sempre loro. In effetti notavo che sono tutti uguali, sempre Just a Case, non capivo perché, mo mai svelato questo dilemma. Ti ho svelato l'arcano. Vabbè, sentiamoci Just a Case con Soul Music. Ed è una sorta di magia, una goccia di frenesia, immersa in questo mare di apatia. Una melodia a farmi da terapia, a ridarmi l'energia, scacciando la malinconia. L'unica uscita d'emergenza, per fuggire via da sta follia, da tutta sta violenza. Per vedere solo la vera essenza, la differenza tra la sostanza e l'apparenza. E c'è chi pensa sia solo rumore a tempo, forse perché l'ascolta ma non la sente dentro. Non segue questo movimento, ha tagliato con il tempo ogni forma di collegamento. È un legame di alchimia indissolubile, a rendere ogni mia utopia così palpabile. In un mondo dove tutto è imprescindibile, vivo solo di questo, il resto è omissibile. E suona sempre, e si trasmette dalla mente di chi le dà vita al cuore della gente. E mi accompagna in ogni istante, donandomi le armi giuste per affrontare il mio presente. È il fuoco che arde nelle mie arterie, che brucia forte tutte le mie paure. Lei è la fiamma che mi dà la carica, perché sta musica è il linguaggio dell'anima. Ed ogni pagina, ogni testo che io scriverò, rivelerà una parte di me stesso in questo flow. Avrà sempre una storia da raccontare, ma solo perché ancora il coraggio di ascoltare. E lei saprà chi suona per necessità e chi lo fa solo per notorietà. Ma se resto qua, non abbandono, è perché sto suono è tutto ciò che sono. Music, Just a Case, 87.9 Radio Onda Rossa, 0649 1750, resta sempre il numero di telefono che non cambia mai, anche quello come il nome del gruppo non cambia tra un pezzo e l'altro. Sempre una cosa molto strana e particolare, perché insomma io preferirei chiamare ogni volta un numero diverso per chiamare te a casa, giustamente. Sarebbe molto più creativo ed artistico, insomma. Magari lo inventeranno. Poi la gente impazzisce, si strappa i capelli. Ah! Chi chiamo? Va bene, allora continuiamo la nostra chiacchierata e Che volevo dire? Io in realtà... Dai, dimmi che volevo dire, dai, sbrigati. Te lo dico io? Allora, te lo dico io. Lui voleva chiedervi, in realtà, se questo mix tra musica elettronica e tutto il tuo mondo, il mondo che del dottore, perché in radio non si capisce, il mondo del dottore che si unisce comunque al mondo del rap, dell'hip hop, se è ben accolto dall'universo rap, hip hop. Questo sì, è un domandone. Diciamo è un 50 e 50, nel senso quando porti avanti qualcosa di nuovo comunque l'impatto sulla gente sicuramente è scioccante, e più ti avvicini a una cultura musicale appunto chiusa, che conserva i suoi, capito, sì, mostri sacri, i suoi standard, più è difficile proporre qualcosa di innovativo. Potremmo fare un sacco di citazioni colte, tipo Bob Dylan che suona la chitarra elettrica, oppure appunto Stevie Ray Vaughan che ha comunque rivoluzionato quello che era il concetto della chitarra blues. Quindi però inserire in un ambito qualcosa di diverso, sì, è sempre un... in un ambito poco sperimentale, come è un'incognita, cioè, sì. Sì, sì, sì, però sì, in realtà questa è una musica che offre tanto, cioè l'hip hop offre tanto spazio alla sperimentazione. Creare un beat vuol dire avere l'assoluto controllo di quelli che sono gli strumenti e soprattutto l'utilizzo dei campioni, che è una cosa molto molto speciale. E diciamo che quando andiamo ai concerti la gente si relaziona a 50 e 50, quando scendiamo la metà della gente non sa bene che dire, ma l'altra metà te viene a stringere la mano. E sì, quella è sempre una soddisfazione, cioè fosse anche uno solo che te viene a stringere la mano è una soddisfazione. Sì, sì. Diciamo, il discorso dell'hip hop è molto relazionato, come ha detto lui, a questo concetto di scena che c'è, soprattutto a Roma poi, rap romano. E diciamo che appunto è un ambiente, come ha detto lui, molto chiuso, cioè noi, come ti ho detto, non siamo molto bravi nelle public relations, quindi non ci fermiamo là magari a parlare con diciamo i big della scena, sì, okay? Sì, comunque sì, a frequentare le serate. Questo, diciamo, per entrare nella scena c'è bisogno di stare lì, di partecipare alle serate, comunque diciamo noi non è che non abbiamo voglia, però non siamo proprio dentro a questo concetto e non vogliamo proprio entrarci nel concetto della scena, a noi non interessa, noi vogliamo fare la nostra musica e mandare il nostro messaggio, qual che sia, al maggior numero di persone possibile. Ma secondo voi c'è grande differenza? Poi questa è una cosa mia che in generale chiedo a tutti quelli che fanno o varcano un pochettino le soglie dell'hip hop. Mi chiedo, ma c'è una vera differenza tra l'hip hop o il rap underground e tutto il resto? Io ho sentito molti rapper che mi dicevano io sono underground, io invece no, appartengo all'area commerciale. Voi, tra virgolette, come vi definireste? E più che altro, okay, credete che ci sia una differenza sostanziale? Allora, secondo me c'è una differenza sostanziale enorme, che però non sta nel autodefinirsi underground, autodefinirsi hardcore, mm-hmm, cioè quelle poi sono tutte l'immagine che ognuno dà alla propria musica, al proprio personaggio. Secondo me il concetto di underground è proprio il concetto della fame, nel senso che noi andiamo là, non ci pagano per suonare, non ci chiamano ogni tanto, ci autoproduciamo da soli. Comunque famo un po' la fame da questo punto di vista. Secondo me l'underground è quello, cioè nel senso gente che lo... La busta strada. Vabbè, mo sì, non siamo nati e cresciuti per strade, non è neanche un nostro tema. E non è quello di cui parliamo. Però nel senso, cioè, è ovvio che se non c'è nessuno comunque che te l'appoggia, che ti dà una mano, devi fare tutto da solo. E c'è differenza quindi tra ciò che si vede magari in TV. Cioè questo è un problema che poi sento molto quando parlo magari con persone che non conoscono bene la cultura hip hop, sì, e giustamente vedono quello che gli fanno vedere i media, no? Certo. I media, no? Quindi vede quello al video oppure su YouTube e quindi pensa che l'hip hop sia una determinata cosa, però secondo me sì, la differenza c'è ed è sostanziale, nel senso, sì, che... sicuramente questa risposta è stata una delle più originali che ho sentito in questo periodo, sì, perché di solito quando io gli parlo e dico ma voi siete underground, non siete underground, e loro mi dicono ah no, io non appartengo all'area commerciale, io sono diverso da, citazione, Fabri Fibra, ah, per okay, esempio, chiaro, e loro si autodefiniscono underground senza magari avere una vera e propria... È quello che c'è differenza tra l'autodefinirsi e dirlo. Appunto, anche perché per poi quello ti dico la verità, cioè nel senso sì, io la vivo underground, però cioè nel senso non è un granché, io non è che ce l'ho con quelli che si commercializzano, anche perché secondo me il problema poi è degli ascoltatori, perché magari quelli sono pure grandi artisti, però perché poi quando si vendono allora vanno a fare quella merda, quello che è comunque magari per alcuni. Perché secondo me c'è la gente che vuole sentire quello, magari glielo impongono i media, però se la gente... gli ascoltatori volessero sentire una musica fatta in un certo modo, la gente che si commercializza dovrebbe essere forte, cioè dovrebbe dare qualcosa al pubblico che è quello che vuole, nel senso, cioè forse non è espresso male. E secondo me il problema è che appunto non è il problema degli artisti che si vendono e si cedono alle major, è il problema del pubblico che glielo li costringe a farlo, perché poi gli ritrovi magari a 40 anni con i pantaloni larghi, con tua madre che ti dice ma come vai vestito in giro perché non ti sì. sei realizzato, non vendi un disco, e quello giustamente dice oh, a me mi danno i soldi, mi fa, è ovvio che quello poi magari si commercializza. Vabbè, poi diciamo che questo è un problema che entra all'interno di una catena, perché a quel punto il pubblico potrebbe dire la stessa cosa, cioè il pubblico non riceve nessun tipo di educazione all'ascolto dai media, non riceve nessun tipo di educazione all'ascolto in un paese quello. Dove a scuola musica è vero. Ricreazione. È verissimo. No, vabbè, io... tu scendi dalle stelle col flauto, è vero. Sì, no, io la sapevo non suonare. Ci si può tu la sapevi suonare? Non ci si può autoproclamare niente, né underground, né... Ormai poi esistono tanti nomi, appunto come dicevamo prima, la critica inventa nomi, e all'interno di un genere vasto, come può essere l'hip hop, ma potrei fare anche tanti altri esempi nel jazz, nel metal... Poi lo dividono, no, in tante piccole nicchie, c'è il gangsta rap, il G-funk, la, capito, street hip-hop. Sì, sì, sì. Alla fine, in realtà, io penso che appunto ognuno porta un suo messaggio. Allora, quando senti un determinato artista, faccio un esempio, Snoop Dogg dire sì. determinate cose può anche risultare credibile, e quando le senti dire da un altro non può più risultare credibile. La verità è che... è una questione di credibilità, cioè non puoi essere qualcosa che non sei, è impossibile. Così come non puoi suonare quello che non ascolti, è impossibile. È vero. Allora vi definiamo i Just a Case. Esatto. Diciamo noi siamo così. I Just a Case. Dai, allora quindi ci basta così. Le nicchie delle piccole parti di canzone che vengono definite underground piuttosto che altro. Adesso saremo i Just a Case. Oh. Genere nuovo. Nuovo voi. Genere. Anche se questo è un concetto così. Vabbè, poi in realtà ogni band è un genere, secondo me, no? Sì, sì, sì. Ogni proprio band per quello, valida, stavo dicendo sì. esattamente la stessa cosa. Secondo sì, me ogni band. Secondo me è pure qualcosa. Sbagliato forzarsi ad etichettarsi per forza in un modo. Assolutamente. Infatti, io quando vado ad ascoltare un disco, tolgo sempre la parte genere, punto. La proprio la spenno dal mio computer perché mi dà fastidio. Sì, cioè, è una cosa assurda. Va benissimo, allora ci ascoltiamo l'ultimo pezzo, io direi. Sì, questo è un inedito che vi portiamo apposta per voi. È uscito tramite una collaborazione con Fusolab, che è un altro laboratorio creativo di Roma molto importante, attraverso un contest su YouTube, che è uno dei loro programmi. E la produzione è di DJ Demis. E il pezzo si chiama Musica Nera. Va bene, allora, prima di mandarlo, io vi chiederei se volete lasciare qualche contatto internet. Ovviamente un sì, sito. Ci trovate su Facebook, abbiamo la nostra pagina Just a Case, ci trovate su MySpace, anche se ancora Just a Case, un po' bloccato, non riusciamo a lavorarci gran bene, però... Sì, guarda, pure noi col MySpace ci abbiamo sempre litigato, ore e ore. E ovviamente abbiamo un nostro canale di YouTube dove vengono inserite le tracce. Va benissimo, e un'ultima domanda, anche magari se ci volete dire le prossime serate, se ce ne sono in programma oppure... La verità è che avevamo un contest che è iniziato oggi, a cui dovevamo partecipare, solo che poi sono partito all'Olanda e è andato un po' tutto a sfacello. Puntini. La verità, siamo un po' fermi dal punto di vista delle serate. Stiamo lavorando in studio, esatto, per il nuovo EP, quindi è difficile trovare il tempo e i mezzi per lavorare anche sulle serate, ma dovrebbe essercene una a aprile all'INIT, ma vi faremo sapere di più. Va bene, allora trovate tutte le informazioni sulle pagine dei Just a Case su MySpace, YouTube e Facebook. Ci ascoltiamo quest'ultimo pezzo e vi salutiamo e vi ringraziamo. Allora, Musica Nera dei Just a Case. Good evening, ladies and gentlemen. It's scientifically known that everyone has born with a gift. A passion, something so strong that it can burn your soul apart. This gift came to me in the form of music, an ancient, primal music forever carved into my skull. And the way you improve this gift is to hear new records and looking at new art forms. Inspiration, well, me and Mr. Hay here, we started a little band. The Just a Case Experience, aka the original Cloud Unite Music Lyrical Murder. The band was doing pretty fine. Now, the only thing we needed was drama. Non ho mai detto che sarebbe stato facile mischiare sangue e flow per riempire queste pagine. Siete voi che seguite ancora schemi metrici, mentre io trasmuto materia attraverso cerchi chemici. Credici, non basta questo per identificarsi in questo suono, in ogni suo contesto, per capire come tutto senza un sogno crolla, per diventare big come Christopher Wallace. La mia musica è grottesca. Necessita solo la verità, il resto non le interessa. Il mio suono è come un frutto proibito, perché una volta che lo assaggi ne vorrai all'infinito. Ma la mia musica non può tacere, se mi costringe a donarle vita nelle notti nere. Da quando scorre nelle vene del mio corpo, seguirà il battito del cuore fino a che non sarò morto. Legato a lei in ogni singola molecola, non si sbriciola il sigillo che ormai ci vincola. Fa lo stesso, comunque vada, questa resta la mia musica nera, è Dio il direttore dell'orchestra. Divinità non necessita notorietà e parla di realtà. Si sacrifica per un po' di pubblicità, suona sempre forte, se ne frega delle autorità. Grazie a lei adesso so ciò che non ho mai saputo, grazie a lei adesso ho ciò che non ho mai avuto. Ma in cambio del suo contributo ho versato sangue e sudore in suo nome come tributo. La mia musica è nera come l'odio di sto mondo che vive nel profondo d'ogni stronzo ed ogni maledetto giorno. Dona carica alla mia anima, rendendo dolce anche il sapore di una lacrima. E sa che oramai la necessito, che non posso stare senza lei anche solo per un attimo. No, non mi interessa nient'altro, lascia voi corona e trono a me, lasciatemi crepare sopra un palco. Erano ancora Just a Case. Con questo pezzo chiudiamo la puntata di quest'oggi, mi dicono 11 marzo 2012. Caffè Doppio torna la settimana prossima, sempre dalle 5 alle 6. Il numero di Onda Rossa rimane 0649 1750, il sito da visitare www.ondarossa.info. 18.02 è già un pochino in ritardo per Jazzy, lasciamo i comandi a un'ora di jazz e vi salutiamo. Buona serata.